faccio circolare un'auto, balli la macchina mia e io andrò a cazzo una macchina mia. No, infatti, rischiare sì, ma non troppo, quello che ti do ragione. Se si può fare piacere, si può fare una volta, ma non dopo prendersi la pizza non va bene. Perché dopo dovesse succedere qualcosa, la responsabilità è la tua del casino. È vero, no. Purtroppo oggi bisogna stare attenti, molto attenti. Lo so, ad esempio a quello che mi copre con me, il mio cicco, vado sempre a prenderlo io. Capito? Adesso, perché lui ha un altro tipo di servizio che gli hanno affidato praticamente a fare le letture dei contattori, mi ha affidato, mi ha fatto affidare. E si sposta da Sorso, sale a Senoli, fa un po' di utenze lì, poi scende e ci troviamo a Porto Torso. Da Porto Torso lui parcheggia la macchina e si siede con me, capito? Mica anda a Tentino e fa tutti i giri con la macchina sua. Eppure sanno che lui utilizza i chilometri, li faccio segnare per intero, quindi anche lui ho cercato e cerco di farlo agevolare, insomma. Perciò quello che si può fare si fa, ma per il resto, cazzo di noi, uno vuole che ha di farsi curare per questa nozzata. Quello si può fare, ho chiesto, siccome abbiamo più o meno la stessa zona, lo porto con me, fa giro con me, cioè va bene. Ma siccome che sono una madre di Heineken, non contano nulla, non sanno a bella manco di giro. Allora ogni mese quando firmo il rapportino lo firmo per intero con i chilometri che fa per intero, invece ne ha fatto la medaglia. Ah, scavaga, quella è un'agevolazione molto grande, che aspetta quello bene, così stai agevolando abbastanza, anche più di quello che devi agevolare, è vero, ma se fa giusto perché magari la persona se lo vede, ti accompagna bene, si fa anche per quello molte volte, anche se tra virgolette non si potrebbe fare, ecco, tutto lì. Non si può fare, no? Invece fidano quando io firmo il rapportino, sanno che ci sono io e quindi va bene così, ma non so, le 30 euro che ricevo in più di rimborso. Come hai detto tu giustamente, c'è quello che lo mette e quello che lo mette, perché quando lo chiami a qualsiasi ora si trova la mano dello gordo Giovanni, quindi chiaramente non è un è un piatto qua e l'altro viene, capito? Mentre ce ne sono altri, io ho avuto dei problemi anche da poco in domenica mattina e avevo due disponibili, non reperibili, disponibili, e uno era a, mi pare, a Arbatax e l'altro era a Punta di Manicomio. Invece non si devono spostare quando tu dai la disponibilità, perché la dai tu. Io sono reperibile di turno, quindi sono a capo turno e ce l'ho, mi mette direttamente l'azienda a me la reperibilità tre volte al mese, mentre sei tu che dai la disponibilità a essere disponibile nel caso succeda qualcosa. E una volta con la disponibilità, cazzo, se ti chiamano devi essere disponibile alla cosa che tu hai da fare. Invece oggi giornati devi uno alla parte e uno all'altro. Vabbè, guarda lo stesso. Alla prossima. Non ho detto neanche qua. Però quando chiedono qualcosa, se è possibile, cerco di fare l'impossibile. Se è l'impossibile non posso farlo, anche io dico di no. Cosa ci va? Purtroppo funziona così. Piatto dato, piatto tornato, e così è. C'è poco da lottare. Se vuoi che l'amore si mantenga, una mano che va, l'altra che venga, se no non si possono lavare la pace a te due. Giovanni sabato mattina era a riposo. Io reperibile, l'hanno chiamato, l'ho trovato. Avevo un po' di casini, a parte mi si è passato a riuscire, ma chi sono il culpa di Giovanni, dice il culpa di Rubeuli, se lo bongari. L'ho chiamato ed era marito al mare. Matto aspettiamo, gioco Venelli. A coppa a Rugoso gioco Venelli. È venuto. È venuto, mi ha dato una grossa mano, abbiamo risolto un paio di problemi molto, molto delicati, perché la sua non ce la faceva, volevo manovrare una sala cinesca da 300, perché anche una manca, e siccome c'ho la Prusciana grande, io non ce la facevo a mantenere, qui lui manteneva la Prusciana, io giravo, io mantenevo, lui girava, insomma abbiamo fatto una manovra molto importante, siamo andati, abbiamo vinto una birra e poi ce ne è tornato al mare, il pantaloncino è giunto, però è venuto a dare una mano. Quindi quando chiaramente hai queste persone che sono disponibili, allora anche tu, se puoi, in sordina riesci a fare un qualcosa che, sai, esci sempre un pagamento di una ruta, un pagamento di una rata, però esce, sono sempre 100 euro in più che uno riesce ad avere. La figlia è la amica di mia figlia. l'altro giorno erano assieme. Ci doveva lasciare il mio nome. E non parlavo pure io di ricca. Tutto, non c'è problema. E poi ti ripeto, è uno che milita, a parte il fatto che è capace, è che non ha avuto voglia di studiare, di fare, e quindi è rimasto un operaio, però un operaio pure contro il padre, un operaio che sa lavorare, insomma, non è che è uno di chi qualsiasi posto lo metti, lui fa e sa fare, conosce tutto, quindi io ho la massima fiducia in lui e lui ci appoggia molto a me perché sa che insomma qualche cosa la ottiene sempre, però no, un bel di rispetto, una persona veramente a modo. E poi è di chi non rimanca mai un sorriso, no, è di chi si parte da Manzano a Muzzichi, va, avanti Venecia, cosa vai, ma è stato appunto, la vai a fare inutili, cadete un mito. Ho un coccodrillo di una maniera della bezzona, gli sta un'altra lì. No, perché se ho rotto il Manzano, ci ha Muzzichi imparato, aiuto, sopravvivente, aiuto, mi aiuti a buttare i cittini conmigo, no, aiuto. Tu vuoi vedere un po' di guri? ci sono le persone che ha tentato già imparare lui dalla mattina e poi non ti dà cuore neanche lavorarsi vicino col muso e cose. Beh, c'è il metro quando si prende una battuta che c'è il sorriso entrambi, una battuta tira l'altra, cioè ti passa anche la giornata. Ma quando trovate vicino a una persona che sta sempre col muso, te ne passa anche la voglia di lavorare. Non sai, molti sono così, perché scaricano molti problemi al lavoro, perché stanno lavorando e pensando. No, io non mi fa vedere ragionare, ma sono anche molto ripreso. Allora, tu devi, quando vieni a lavorare, devi cercare di essere un po' più tranquillo, sereno. Ma io ho tanti problemi, ma i problemi ce li abbiamo tutti, sai che i problemi ce li hai solo tu. C'è quello che ha meno di te, quello che ne ha più di te. O tu pensi che io non ho problemi a casa, ma ho problemi a lavoro. Intanto perché sapete qual è il mio impegno, ma sì, lo so, e allora, in caso ci tu sbagli, noi ce la viene con te, ce la viene conmigo. Quindi devo cercare di avere una squadra, cazzo che riesce almeno a. Durante il lavoro a stare un po' itti, a cercare di bilanciare le cose, di fare. La salita era un po' carino così. L'ho vista un po' più sorridente. Da bene, forma sì. Insomma, però ho capito quello che mi hai detto, ma visto, allora, tranquillo, sereno, tu quando lavoro non pensa solo a lavorare, fregate. Poi tutte le altre cose vengono dopo. Se ci sono problemi, possiamo risolvere assieme, che hai bisogno di qualcosa, tu parlare con me, se è fattibile, stai pur certo che si fa, fatti la mia barricande. Da quando è che in ferie? Ah, dal 10. L'otto, o un settimo, mi ha detto. Ma tu ho bisogno, cosa vuoi le fede? Non c'è problema. Fai la domanda, te lo vivo, se gli ingegneri ti lavate passare, se no ti metto una buona parola. Ma è un po' così, ma lei è sicuro? Ah, la domanda di fede, un po' ha bisogno di riposarsi, un po' stressato, un ragazzo molto tranquillo, già ci arrangiamo. Ed è ancora le fede. Rientra la prossima settimana. Se si può fare, ci vale, se no fa niente. No, ma vedi, ma io penso, ma l'ha salvato in presa, perché non potevamo la parola, per questo, per quell'altro, e penso che siano delle persone in cui, non ci metterei la mano al fuoco, però dovrebbero essere, diciamo, delle persone che devono controcambiare quello dei favori, ecco, tutto lì. Ma già ci sono ancora quelle persone che si danno da fare, non siamo tutti uguali, quello è vero, però io penso... penso se tu fai un favore, già che ho parlato dovrebbero anche essere riconoscenti su quello che fai, ecco, tutto lì il discorso, la parola. Vabbè, andiamo via. Purtroppo quando non si ha esperienza è proprio quello il motivo, cioè è proprio quello quando tu dici che c'è sempre da imparare, e così sarà anche per loro, ci sarà sempre da imparare, è vero, è vero. Posso parlare con uno, lo devo fare, no? Ah, ecco qua, buonasera, dopo tanto, mi hai ascoltato, mi è entrato avanti, va bene. Se parla Antonio, non passi, se parli sotto, manco ti sento io, lui, attorno a 60 notti. Buonasera, ben entrato, KK. Se lo lascio con un po' di bianco è un casotto qua entrare. Insomma, non è appena mollato subito, ho schiacciato la portante, perché se no non riuscivo a entrare. Chiamo contro una da 2 kW là. Qui c'ho l'antenna. Qua ho formattato il computer. Non andava più. Non andava più tutto, ho perso tutto, la musica, tutto. Beh, che cazzo lo fa? Non c'avevo niente per recuperare. Ho comprato un pennino su un'occasione, agli attardi. L'ho formata, perché quando lo accendevo c'era sempre la spia della disk, era peggiava, fissa, non andava più. Non andava più la pagina di internet, si bloccava tutti. Fa un casino, là. Poi ho dovuto formattare. Infatti stavo lì indeciso, mi spaccarlo, buttarci e comprarlo nuovo. Adesso finché va, poi ce lo butto. Non mi faccio più guardare questa computer. Vabbè. Ma ieri io. Vabbè, il pennino ce l'avevi, ma ne ho anche uno io già carico di musica, se lo vuoi, per scaricato, eh. No, però no. Ho perso tre basi, cazzo, porco chiuda. Passo tutto. Mannaggia. Anche qualcuno sassavese. Come cazzo lo recupero adesso? Come cazzo? Tutto. Matto forte, questo. Macini un ba. Vabbè. Non potevo fare altro qua. L'unica la formattata e via. Ma non va più. Ma io stavo pensando che era l'arbitro che era partito. Infatti la formattata era andata alla bottina. Allora, noi abbiamo iniziato, mezzogiorno, abbiamo finito adesso, poco fa, 8:30. Lo so, per riformattarlo ci vuole un po' di tempo. È così, è così. No, io volevo riaprire, poi sono andato a cliccare, che ho visto che eravate tu da una parte, quell'altra da un'altra parte, e cazzo tu, ma gli dico, ma allora non apro nemmeno. Io era su un'altra room. Tu lo stesso, hai detto allora non ho venuto, vabbè, pazienza, stasera mi sto facendo le chiacchiere a radio con Antonio, non ho neanche acceso il computer, non avevo gana, va bene, vai anche per Lucariello. Allora Lucariello, se non sapevi combini Lucariello. E altro, cosa ti combino? Via, cacchio di computer. No, io non c'ero, sono rientrato qua c'ero qualcosa, ma stamattina manco. Poi c'era che era morto il computer, non era più, era morto. Ma perché la tappa la codetta, aveva il telefono usato, per dirgli un po' cosa era. E vabbè, comunque. Bene così, adesso appena si ferma, non faccio altro, non va, neanche un pezzo rimane questo computer, neanche un pezzo. L'unica cosa è adesso è l'alimentazione, tutto l'altro però non lo faccio a pezzo, non vuoi più un cazzo. E prendi, riprendi a tu, che stavo buttando la porta a cena. Ti stai stufando, Lucarie? No, non è che sto stufando, non va più proprio, capito? Non andiamo in pensione anche a lui, non va più. Ah, che ha pagato. Vabbè. Vuol dire che te ne comprerai un altro nuovo e sarà tutto. positivo. Cioè, mi rompo le palle. Stanno facendo la connessione, noi facciamo la connessione poi con il computer. Ecco cosa è. Anche quello è vero. Ma l'avete comprato nuovo questo computer? Siamo qui. Riprendeva. La qualcappa. La parola c'era. È così, allora. Lo prendi nuovo e ciccia. Già costano poco adesso. Cos'è il computer? Siete Bogotà. Dovevo avere aumentato di nuovo. Addirittura. Mi pare di sì. Mi sembra proprio di sì. Non lo so. Allora, Rogero, riprendi il Cavaliere. Me la boccare. Lo entra, da voi. I pari. Cambio. Gappa, la benedizione, dai. La benedizione, Cavaliere. E poi c'è altri pinni, Cappa de Roche. Io te la puggio. Ciao. Ciao. Ti la spingo. E che bello, chi è che me la insaccano a voi? Buonasera a tutto. Tu lasci il microfono. Aveva aperto la... Aspetta un attimo. Ora. Com'è? Adesso va bene? No, tu? Già ti sento, ogni tanto gratti. Ora. Questo va bene. Sta andando bene adesso? Sì. Adesso già va bene. Mi monito questa modulazione, Antonè. Questo è il 4,40 con l'MC60. Che passo col 4,30 l'MC60, mi dici qual è migliore o se si avvicina molto, Riprendi a tu. Memorizza questa radio, per come tu solo l'antenna. D'accordo. Beh, Antonè. Allora, ok, come va? Spontoni, e per ascoltare, cazzo, scendo bene il microfono, senza amplificazione, adesso... Come è stato lo sveglio, si incasina. Non sta senza usando la parecchio tempo le cose, si comincia a rifettare. Cava. Così è proprio, bisogna farli girare, se no si incantano, si impanno, polvere contro polvere, diventa macello. Cappa di Rocce. Guarda a vedere, Antonio. No, mi piace questa. Ciao, già va, troppo bassa. C'ha un effetto strano. Come ti posso spiegare? Un effetto come se fossi distante parlando. Non sei bello pieno di modulazione, capito? Non è bassa e non è neanche alta, però c'è un effetto strano, come se fossi parlando distante 3-4 metri, capito? Tipo così, me. No, allora mi devo avvicinare, ecco qua, così, leggermente più vicino al microfono, MC60, questo è il 4,30. Ma non è la processata la ciccia? Non ce l'ha, è inserito, così è inserito e così è disinserito. Così è inserito. Vediamo. Un pelino più di amplificazione elevato. Così meglio va. No, aumenta di più. Questo ci aumenta un fischio. Ecco qua. Ho fatto un altro pelino. Bene va. No, non mi soddisfa. La verità non mi soddisfa. Io sono abituato. Ok. Sia culo sia con l'altro, che non sembra che non stai cambiando niente. Però se tu ti ascolti con l'altro apparecchio te ne accorgi subito. Perché c'è un abisso da uno all'altro. no, intanto siamo il mare che io ce l'ho visto. Quando addirittura infatti il processore, ma dire che mancava quasi ormai. Proprio basso che senti. Che strano, eppure qua la lancetta già funziona. Oh, 2060 col 430 però, non lo so. Luca non c'è, Luca. Luca, là ci sono, dimmi. Sto mangiando, dimmi. Questo è il 430 con l'IMC60, molta differenza c'è dal 440. Non la radio questa, niente da dire, però è meglio l'altra. E cosa ci avete di differenza? Cioè cosa notate di differenza? Dei medio bassi, medio alti, cosa c'è di fare? Fatemi capire, così mi faccio qualche regolazione, perché voglio usare anche questa un po'. Qua, effetto soffocato, ce l'ho presente. Effetto soffocato, effetto c'è un effetto nuovo io, Antonio. Effetto soffocato l'hanno detto il terreno di due in bocca. Non metto lì in culo. È un effetto soffocato. La verità, come ti posso dire, comunque non è quella grande amplificazione che senti con 440 o con 680. È buona, perché è buona, però c'è un abisso. Io ti sento così che sono vicino, perlomeno. Io sono abituato a sentirti con una parete e con l'altra, però questo è strano, è veramente strano. Grazie, via, sono soffocato, non tu. Grazie. Scurido, sentendo il mio effetto soffocato, mi sento di avere effetto presenza, effetto cattedrale, effetto cazzo, effetto soffocato, questo nuovo effetto a bugare altro letto, va bene, effetto soffocato, e quindi non lo so, vediamo aumentando ancora. Ecco qua, ti ho dato un altro appena di Mickey Gaines, sempre col processo, cambia qualcosa, sempre questo effetto soffocato, Antonio. Questo è questo pugnettone, ecco. Non dico mi Antonio, bisogna punire in atto Buruguiscio l'effetto pugnettone. Sarebbe effetto soffocato. Ma ha cambiato qualcosa o morta con l'altra? Va bene, non va bene. Niente da dire, non è la radio questa, Però l'altra è più alta, più bella, più... E presto un pugnettone con l'altra, sembra. E basta. Perfetto pugnettone, non basta venire fuori, ragazzi. E vabbè, è più alta, più qua, più là. Non posso sollevare di più perché altrimenti fischia, innesca, c'è ancora qualcosa da vedere su questa linea qua, questa linea 440 con la T250, vabbè, ok, comunque la differenza c'è dal 440 al 430 perché c'è uno e un tre conversioni, l'altro è un due conversioni. Quindi la differenza c'è sicuramente sull'autocontrollo dell'LC, su questo non ci sono dubbi perché lo so, come ci fosse tutta questa differenza non me lo sarei mai aspettato. Va bene, alla fin fine effetto pugnettone o effetto soffocante, quindi siamo a livello diciamo di soffagotto, no? In generale, perché tra l'effetto pugnettone e l'effetto affogato, come dice Antonello, si tratta sempre di un soffagotto, quindi questo effetto soffagotto si può tenere oppure non serve proprio a niente. Adesso va bene, evidentemente hai fatto la pugnetta, cos'è toccata là? Io ho fatto un soffagotto, ho aumentato leggermente il Mickey Gain, è quello che ti stavo chiedendo, dammi una linea, no? Io il Mickey Gain del 430 non è che lo tocco spesso, quindi devo avere più o meno un bilanciamento, non dico uguale al 440, ma se cambio radio da poter stare nei limiti. Se poi c'è una leggera tolleranza di effetto microfonico, mi sta anche bene, ma i microfoni sono uguali. Senza ombra di dubbio il 440 spinge molto di più perché è un 3 conversione, quindi questo autocontrollo non è a quei livelli perché è diverso, però se l'effetto c'è di preamplificazione, quindi l'effetto pugnettone, lo teniamo. Ho fatto un passaggio che riesci a dire bene, allora ti si torna come c'è prima. Evidentemente c'è lo slider, oppure il potenziometro mezzo incasinato dall'ossido, ecco perché ti fa quell'effetto lì, tutto lì, non è un problema. Dai una bella pugnettata da 5 secondi con la destra, sinistra, sinistra, destra, vedete che le cose vanno bene. Vabbè, allora facciamo stasera, vediamo. Ecco qua, adesso li ho messi in automatico, va bene così o continuo a segare? Sì, non sì, come 2 minuti fa comunque già va un po' meglio, allora, non senti nulla? No, già la radio pubblica, lo sai che tu non hai bisogno di amplificazione. Sto cazzo di PC non va più. Allora, tu hai bisogno della massetta, lo dico a bustino, la pura non lo faccio mica un pezzo. No, quindi tu mi dico va. Non vuoi più vedere. Dai, la bustina, ma andare, fa andare anche un po' che quella magari è fredda, non lo so. Comunque, andare superiore il 140, se vediamo 140, non so. È molto superiore. Il radio più alta, bella. Non la pimpante, questa la stessa mega, la più bassa, ai medio bassi, capito? Ah, ecco, finalmente ho capito. Quindi sui medio bassi si può lavorare con le mic, basta sollevare leggermente, si può anche sollevare, vediamo. Ecco qua, sollevato un altro pelino. Va bene così. Tanto, ma tu sei più vicino, mi senti bene anche il tuo effetto scorreggio. Aspetta, mi scando. Leggermente gli emetti stanno in clave aumentata. Sì, ma stiamo innescando, ha ragione Luca. Stavo iniziando a innescare. KK, si sentiva. Aspetta. Che cazzo, sapete che l'ha toccata? Ah, ecco. Ma guarda, 500K, ho 50K. Microfono. No, a 50 devi tenere sempre. Adesso non stai innescando, però a 50 lo devi tenere. Adesso va bene. Ah, infatti, forse è pure a 100, ma a 500. Andare. Ah, allora sto pensando. Secondo me, sai cosa è? Al TAC. Non lo fa andare. Computer. Può darsi pure sia quello lì che non faccia andare, può darsi pure che sia quello lì che non faccia andare, vabbè, cambio radio allora, dai. Comunque questa per fare qualche passaggio si può usare o non si può usare, ditemi sì o no, vabbè, poi riattacco con un motore 440, si può, possiamo usarla insomma per fare due chiacchiere. Non voglia. La puoi usare sì, però sta andare fuori tempo perché si sente che non, se non mai il tempo che non accendiamo l'apparecchio comunque. Ma lascialo, la fate poi i passaggi con questa, lascialo stare un po', va bene. Ma va bene, Ma è l'ultimo. Come se fosse uscito da così per dire a così, mi guarda, anzi vabbè, non è che sia fatto fare la cosa giusto o giusto, però è un'idea. Ah, così c'è una differenza, era così c'è l'altra. E vabbè Antonio, se tutto lì il problema, no? Possiamo sollevare un po' di più la voce, non è quello l'importante, ci sentiamo. Perché altrimenti, davvero, ma non funzionava niente, tutta la sera attaccato, c'è anche la ventola, quando la ventola funziona la farmaci di gastrobalontrattori, cresciuta piena di polvere. Devo aprirla e darle una bella lubrificata. C'era il microfono che era completamente intasato di polvere, ho aperto sotto e l'ho spruzzato lo spray, quello per i contatti, soffiato con la bomboletta dell'aria, e ripiazzato tutto. Proprio lì sto facendo prove con Antonio, usciva proprio di portante, tutto a fischi, tutto a innischi, quindi ha già migliorato. Ecco perché voglio commutare, siccome non è che devo cambiare antenna e fare, c'ho il commutatore, commuto da una all'altra, commuto su 4, su anche su 140, ho usato anche 140 stasera. Vabbè, visto che siamo qui, ogni tanto ci sentiamo, è meglio farli andare, poi se c'è differenza di modulazione, l'importante è che mi ascoltate. Beh. Riprendi Antoine. No, per me va più che bene, è buona la prima, ma anche questa già, se vai a girare è l'ultima radio, KK, avanti, riprendete e fate girare, dai. Sempre incasato questo computer, sì. Lascialo fare a Luca, c'è entra ogni tanto, non c'è problema. Va bene, ok, comunque l'importante è che... Siete nella motocarrozzella, in cuffie, credo, e giù nel piazzale, quindi già sta amplificando. Che cosa è che non senti qualche bomba sotto, se la... Quella qua... Da casa sento i fuochi artificiali dell'Argentina, si fanno anche appena sei quasi dalla finestra. Sì, naturalmente i fuochi artificiali partono a 10:30. 9:30 mi sembra che era. Comunque quelli dell'Argentina sono già iniziati, che io li vedo. Basta che guardi verso il Sentino, vedi le luci dei razzi più alti là, e poi sente boom, boom, boom. Passo, ma già si sente, come se fosse un temporale lontano. Passo, la gente da fuoco artificio sono. Faccio problema domani, niente. Ha pagato un cazzo di impianto incendiato. Sta bene, per carità, io. C'è comunque tutto di bella onda. Vediamo tutto l'acqua. L'unica cosa che non vedo è quella camona qua, perché ci sono i palazzi che hanno fatto i nubi, me la tappano. Invece vedo da palà in poi, purtroppo. No, io... Ecco, si sentono, sì. Si sentono i butti. No, io non mi sono neanche affacciato, sinceramente, a vedere quelli di... Entra Canona, ma non me la fotti nulla. Stavo cenando, quindi mi sono dimenticato anche che c'erano figuretti. Quelli della Gentiera non sapevo niente. Quelli della Gentiera, domani speriamo che sia tutto a posto. A Chichivi c'è un mezzo indigene, che ha levato la sagra di Lucinghiale, vabbè, l'altra volta a Palmadola. Ma c'è un po' che tiene l'impianto di casino, per carità, che ho messo tutti i campagnoni in chimica, ma per rispetto bisogna sempre fare le cose fatte bene. Speriamo che non facciamo casino anche lì. Vabbè. Lugalie, vuoi riprendere? No, è giù che la pocca, lasciate riugare, sennò voi perché il dutto è come tutta terra, riprendi anche tu. Adesso ci avevo un leggerino innesto, confermi poco. Innesto, no, innesco. Innesco, Tu hai detto innesto, mi stanno inchiappettando la strada, ci mancherebbe. Ce ne vuole tempo, quando vanno a pensione non inchiappettano. La CGL, la CIS, la WIL. Cappa di roccio. Beh, io l'ho scippata, ragazzi. Non mi vedo neanche di lavorare, insomma. No, oggi è trattenere. l'altro ormai due giorni solo abbiamo fatto, no? Due giorni solo hai fatto. Di che cosa? Di ferie. Nulla, non ho fatto nulla, no, se facciamo lavori privati. Non ho fatto neanche un giorno di ferie. Ah, se fai lavori privati non conto, perché adesso ho visto che le imprese fino a settembre insieme non fanno niente. Ecco perché. Lo so, ma noi i materiali avevamo già preso da prima, capito? Giusto perché sapevamo che i rifornitori andavano a andarci alle ferie, perché ci siamo dati da fare, comprarci un po' di materiale per finire questo lavoretto e niente, poi se ne parlerà tutto a settembre ad entrare in imprese e niente, tutto qua. Ah, meglio così. E vabbè, adesso vedrai, già si sistema un po' la cosa. Se fanno la faccenda di Pucu a Sassari, fanno il lavoro però per voi, ci sarà a costruire tutta la vera portatore se si giù a cosa? A Ottava. Speriamo che lo fissano veloce con qualcosa. A meno di costruiscono villette, quello che è, il lavoro c'è un bel. Per almeno 5-6 anni, sono 10 pure. Speriamo bene, allora, speriamo bene. E se no succederà a campare come stiamo facendo. Campanoce, le periodi. E infatti. Ho attaccato l'MC80, anzi 85, e sto sfiggendo col doppio compressore. Infatti sta scendo bene, oggi ti ascolti, ascolti. Chissà perché arrivi 9.30, non sente quello che sta parlando insieme a lui. E così, se quattro volte mi è capitato anche a me. Peraltro i controlli giusti devi bollire la portata per forza. Almeno il controllo ce l'hai sicuro al 100%, perché pure quando il registro glielo fai sentire dice no, tu, io ti ho trovato 9.10 poco fa, non puoi essere che ti ho trovato 9.30. Come no? Questa è una voce non è la tua. Sì, e allora sei macco. Mi devi così. Quando do i controlli, se un microfono non va bene, come va bene, lui. È inutile che continuiamo a ribadire i discorsi di vecchia data. Ma io sono sincero, non dico le cose, ti dico quello che sento. E giustamente deve essere così per tutti, inutile mi dire, ma fammi contento, va bene, poi cazzo sto modulando. È un altro di dire guarda, stai facendo male, ma se hai una data la controllo. Io è difficile che la controlli, l'ho fatto adesso per capire un po' qual è la differenza tra il 4.30 e il 4.40. Il 4.30 ha bisogno un po' più di spinta, quindi giustamente gli si può adeguare l'85 con la spinta del compressore, in più il processore della radio, quindi le dà una spinta superiore, che è notevole, ma si sente, la sento in cuffia più spinta. Poi 440 vabbè, col processore suo e la modifica che è stata fatta spinge un po' di più. Va bene, ok, non problem, abbiamo risolto, abbiamo fatto quasi un lavoro ottimo, però domani lo metto in mezzo con il 430, lo apro e vedo una bella pulita, una bella sistemata, e lo vorremmo andare, usiamo un po' quello, il 440 lasciamo un po' più fermo. Avanti Anton, stavi dicendo qualcosa? Sto dicendo, io lasciare più da battenti che domani si trabacca e niente, mi approfitto a salutarvi, passate una buona notte, noi ci vediamo domani per la caffeina, Claudia, e niente, ciao Lugariello, ciao Pomponi, ciao anche a te Claudia, passate una buona notte, che a me mi si sta abbisolando un po' gli occhi, e ce la riascoltiamo tutte le migliori. Riguardo a te, va bene, ci rivediamo domani mattina per la cappella. Cavarocci. Ehi Anto, tranquillo. Solita ora. Ci vediamo per il caffè e poi ci prosegue per la giornata lavorativa. Ciao, buonanotte. A domani, grazie per le due chiacchiere. A frappè. Vai Anto. Ciao Anto, ci sentiamo, buonanotte, buon lavoro e buon caffè per domani. Stacci bene e buona notte. Avanti, va. Ok. Antonio, Annanna, poi già ci vediamo domani mattina. Ci vediamo al caffè. Gaiesce, Antonio. No, è perché soprattutto quelle grandi ne sto usando pochissimo. Di solito, vabbè, prima trasmettevo un po' di più anche in banda amatoriale, adesso quando mi sono ritrasloccato qua e poi col lavoro è un casino, non c'ho tempo di niente, quindi sto trasmettendo solo la notte, così la sera sul tardi fare due chiacchiere con Antonio, con chi entra, ben vengano tutti, non c'è problema per nessuno, e quindi uso sempre stavo usando sempre il 440. Adesso uso il 430, vi faccio andare anche la T250, ogni tanto lo faccio rullare da banda a banda, giusto per far camminare il variatore, se no si inciola bluiscio. Va bene, lo stavo dicendo. E tu il 70 l'hai messo a posto, sì? Quante secondi sono andato 70 adesso? No, ho sentito il tac del mic. Questo? Ehi, cazzo di ora, infatti. Mi hai fregato per quello. No, il bip no. Da quando mi avevate detto che era fastidio al centro storico, quello lì avevo fatto eliminare provvisoriamente la cosa. E quindi tagliamo, e quindi l'ho lasciato così come era adesso. Poi questi giorni mi tenevo in mente di nuovo riattaccarlo, riaggancio. Ogni tanto uso uno, ogni tanto uso l'altro, non fa lasciare questo apparecchio qui così. Ha sofferto anche troppo giù l'aceto storico, era troppo umido qua. Come ho sofferto in quella casa 2 anni, non ho mai sofferto in vita mia. Meno male, guarda, mi è sembrato bello salirmene qua, abitare, perché mi stavo, guarda, veramente scoglionando del tutto di lì. E ho trovato una casa di merda, perché c'avevo solo 15 giorni che ho trovato, poi ha ricatto il comune, se vuoi ti paghi l'affitto, c'hai una settimana che ho trovato la casa, ha creato tutto, un tubo di ottobre, così ho visto, mi sono infilato, come fanno tutti gli altri. E purtroppo ne ho sofferto io e anche l'apparecchio. Io ho sofferto per le macchie, e l'apparecchio è anche per l'umidità, perché sono arrivato, cioè, infatti stava bene quando sono entrato, perché sono entrato in aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, no? Non so bene, ho cominciato settembre, ottobre, novembre, su questo di muffa, da morire fino a là. Insomma, se di 2 anni non sentivo più nulla, no, sentivo solamente l'odore di muffa. Stata brutta bestia la muffa, brutta bestia, mamma mia, garagas. No, mamma, io non ho mai avuto questo problema. Ho preso la casa giù di via Pascoli, che avevo fatto quel lavoro di un poggiolo che c'era proprio di fronte al salone. Io ho rilevato il cucino, ho fatto tutto chiudere, fissi alluminio, la vetrata, è fatto bene, ho fatto un barca di soldi con la finestra, la cantariera scorrevole, sali scendi. Vabbè. L'anno, l'ultimo anno prima di salire qua, ho notato delle macchioline, delle puntine nere in alto. Ho lasciato la scala e ho visto che era muffa. Ho collestrato quello che ha piazzato gli infissi, che ha siliconato male. Quindi l'ho fatto subito il trattamento all'angolo in via Montello. Poi è venuto Giovanni Guccio, e ho dato un'imbiancata, tutto, non è più uscito, niente, l'avevo siliconato, ma l'avevo siliconato Giovanni, di nuovo bene tutto il cordolo del portante dell'infisso, e non è più uscito, niente, non ne ho mai visto. Anche quando ho trasloccato, poi ho portato su alcuni mobili, vabbè, altri li ho lasciati lì, perché la frittata si mi ha mobiliato, però dove ho tolto mobili non ho visto niente, eppure è abbastanza vecchia la casa, è stata ristrutturata 3 anni fa, sarei fatta nuova, quindi, quando vedi tu lì, era umida già dall'inizio. Sì, camuffata è stata, più che altro. Poi, insomma, sai cos'è? Non è l'umido da sopra, è l'umido da sopra. Perché pioveva, siccome ha fatto quel temporale brutto l'anno scorso, anzi 2 anni fa, non l'anno scorso, entrava tonda la corrente, quindi entrava da sopra. Pioveva di canto, mi studiava e entrava la roba di Torrento. E quindi era una cosa impossibile abitarci. Ho preso ma come si muove tutto, la mano da far culo per le case, cioè ci va a strade, vai a far culo, la tua parte va a casa mia, non devo stare qua 20 ore, ho detto c'è la casa, lo stai rompi, no, non saranno. Ha fatto ingressare il culo. Proprio dove mi sono andato. Tipo dopo dire, Giovanni Cuccio, non l'ho più visto, so che devo fare qualche cosa, poi è buono, mi dice, già ci faccio sapere qualcosa, Antonè. E invece non mi ha detto più niente, non l'ho più visto, di solito passava in vespa a casa mia in casa di Matto. Che fine ha fatto Giovanni? Giovanni, lo sai, anche lui ogni tanto lavora, ogni tanto no, era da poco qua proprio di fronte a me, stava facendo un appartamento, biancando, messo a ringhiere tutto proprio qua nella, di fronte dove abita Ottavio Cicci. Ci siamo visti e niente, mi ha dato la mano per smontare un po' qualcosa giù e niente, anche io sono da un po' che non lo vedo, ma scendo poco via Pascoli mensilmente, per farti capire, qualche volta così o mi chiama quello che c'è per darmi la posta, oppure passo io, c'ho la chiave del portone della cassetta e guardo se c'è posta, ma non l'ho più vista Giovanni, neanche lì dal meccanico, dal Walter. È difficile che non c'ho tempo, Antonio, non c'ho tempo, prima invece quando ero giù, quando ero a riposo ero sempre in zona e quindi ci vedevamo spesso con Giovanni. Adesso quando sono qua su sono sempre a casa, non sto uscendo più da nessuna parte. No, non mi vale stare in giro. Voglio riposarmi, stare un po' a casa, la famiglia, eccetera. Tutto qua. Ma ti aggiungo un po' il telefono, intanto ci sentiamo per telefono. E mi ha detto che c'era portato baracchi da uno, ma ha potuto andare, mi ha detto Giovanni. Dice, ma la riprendo, ho detto, ma la riprendo, ti ringrazio, ho detto, ho detto che almeno ti ci fai compagnia, quei patrullati che siamo, ho detto, almeno qualcosa in più, ho detto, c'è. Dice, vediamo, dove c'è, no, non gli vivo il tuo, la verità. E mi dice, è sempre uguale a me, l'unica cosa è che sono cresciuti i capelli bianchi. Adesso non ho preso manco un cappello, come Roberto Pinna, tale uguale. Se tu guardi Roberto Pinna non ha preso un cappello, anzi sono diventati bianchi adesso. Piano piano ce li ha già mezzo bianchi e mezzo neri. Infatti lo chiamo Bella Bianca. È tutto bianco Giovanni. Capelli corti, tutto bianco. Uno l'aveva, ne aveva due. Uno l'aveva pensato, infatti ne avevano più tornato. Ma già lo so chi ce l'ha, infatti gli avevo dato l'indirizzo io, poi non so se ci è andato a farselo ridare. E c'è l'altro, l'avevo dato a me, ad usarlo, e poi è capitato che me l'hanno chiesto, e quindi l'ho telefonato, ho detto dove faccio, questa ricchezza di qui, cosa fai? Glielo dai o... Sì, fai tu, e gliel'avevo venduto. Mentre l'altro, quello grande, ma questo era un baracchino a un camionista, non ricordo manco che marca era, boh, se era Midland o Intec, boh, non ricordo. Invece l'altro, il 3006, cos'era un Comex 3006, boh, non c'è pensato 3006, adesso mi ricordo. Quello ci aveva pensato, cazzo, non gli hanno più tornato. No, era un 120 canali, era. Quello vecchio me, faceva M e SSB, e per me male, male ma con la vera addirittura, vera di due. Non mi ricordo la marca adesso, la verità. Era grande, era grande, però non mi ricordo la marca. Sembrava un SSB 350, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo neanche io, l'altro sì, mi ricordo, se non mi ricordo se era una 48 o un Intec. C'era una un Intec, non mi ricordo, sinceramente, lavorato un camionista, era nuovo, era contentissimo, aveva 200 euro con il microfono normale, poi gli aveva regalato uno di quelli microfoni amplificati a rotellina, fatto da trovare, mi ha detto, oh, non è mio, provalo, per me va bene, io l'ho provato, gli ho detto, è perfetto. Ma no, no, se me lo stai dicendo tu, è perfetto che ci conosciamo, non c'è problema, tu va, come vuoi, io sono di noi voglio, prova, se secondo te va bene me lo paghi, se secondo te non va bene me lo ritorni, io lo ritorno al padrone. Invece mi ha parlato, mi ha telefonato, poi ci siamo sentiti anche una volta, mi ha telefonato, mi ha detto accendi che sto scendendo da, non so, da Rover, così senti la radio, lo sentite, andava bene. Non era questa grande radio forte, ma poi credo che l'abbia mandato a modificare anche lui con il risorgimento Vivani. Credo che abbia messo anche lui la camera eco, tutto, l'ho sentito da poco, tutto amplificato, tutto usurato, quindi è andata bene. L'altro so chi ce l'ha perché me l'ha detto Giovanni, però dice che è andato un sacco di volte e non lo trova mai a casa. Sì, l'avevo tentato, voglio vedere se mi era via là dalla radio. Ma non per l'altro non si è quasi nulla, non è una cosa alzata, quindi a meno che non si è mai venduto il discorso di ieri. Se non vado a giocare ieri, già di orgoglio, gli do di 34 canali, al limite già quello, la casa sua, a meno per entrare in AM, va bene lo stesso. Se non ha cambiato casa, la ferma per avercela ancora. Ma sta dietro a me. Dopo per io, via Pascoli, praticamente lui la traversa dietro. Via l'Annunzio. Attraversa via Gabriele d'Annunzio, quello. Non c'è problema, c'è l'antenna. Ci ho detto io, anche da poco. mattina prendi una radio, ne ho tanti, avevo il Superstar 7000, c'ho il Sears SSB, 40 canali, c'ho poi 40 più 40, ne ho dei baracchini io. Guarda il statore, ho guardato tutto, ma non le vuoi più di lì, non sai come ci va. Giovanni è con le persone che mi piace parlare in una maniera, no, a chi ti dici. Quindi dice per entrare mi si con la gente, no, non voglio sapere, no, non la fotti più nulla. Ma a me mi piace già, se mi piaceva non volevo entrare. Solo che stava lavando fuori la rete, quindi non c'avevo il tempo. Così come l'ho trovato io due volte, era passato in... In questo momento l'ha passato, è stato in Vespa. Vespone. Figurati. Che un giorno mi sono fatto per sbaglio di lì. Poi ho visto anche a cosa, stato un tempo questo, sono bello, non lo vedo, Leandro. Quando parlava baracchino, all'uscita di Sassari, parlava, c'era la... Adesso non ci abita più a Sassari, abita anche lui a... Mi sembra moltissimo usi infatti che abbia comprato la casa. C'era comprato una di quelle antenne Rousai, di quelle lunghe, lunghe 9 metri, poi c'era una di quelle stella, poi c'era comprato, sono stato stronzo io in realtà. Perché io mi mancavano, per pagarmi l'affitto mi sembra 100.000 lire, e io ho detto guarda, prenditi il presidente, ho detto 1.100.000 lire. Ha giocato una gazzata, mi sono messo anche pentito, quando l'ho trovato dopo 4 mesi, ho detto me lo dai il presidente, ti devo subito. No, dicendo mi piace troppo, dice me lo tengo io. Anche dice se si guarda la bianca, ma devo fare un culo, ho detto, mi sono veramente pentito di aver trovato. Presidente Jackson, l'originale. Jackson, grazie, c'ho Lincoln. Presidente Lincoln. Che ho ritirato tutto a Salvatore, devo anche andare da Luigi Vulcano a ritirarmi l'antenna. E anche lì è stato un blitz proprio molto interessante. Ho preso il VNU della ICOM, il presidente Lincoln, strumenti, microfoni da tavolo, da palmo, di tutto, di tutto. E la gemella di questa mi ha preso un'altra persona, la sai chi, perché ce l'avevo già, era un controsenso, ho detto no, quella venita da parte non mi interessa, ma tutta l'altra roba l'ho presa io. Ma c'è microfoni, c'è un microfono allucinante, Savelta è micidiale, è tutto dentro, dentro ancora la scatola. I baracchini qua non è che devono violare, i baracchini sono un'altra scrivania, qua è tutto roba materiale. È molto bella venuta stavolta, Antonio. Non può vantarmi, ma ho fatto un capolavoro Giulio e poi ho continuato io, lascio tutto veramente a posto, che se ne avevo anche voglia di vedere tutto esposto e tutto funzionante, non si vede manco un capo, tutto sotto canale, dietro, ho fatto veramente bene, ho fatto la parte amatoriale, la parte proprio CB, solo io, invece gira la sedia dall'altra parte, la giro sempre a questa, cazzo. Che modulo sempre con le stesse radio, ma non se ho usato il Superstar, se lo sono attaccato a più 3, cazzo mi sono dimenticato che avevo fatto le connessioni al coso, vaffanculo, allora provincia a verbo e poi ho dato a quello da base, e quindi non avevo voglia stasera di invertire il filo, ma domani già lo inverto e se riesco a darne più 3 al Superstar uso anche quello. No, invece fa la cosa. Al Superstar che ti ho ceduto l'attacco di sale il 3, va bene lo stesso. Che già pronto in tutto che c'è una bomba. Distrutta per la pelle di cerici perché c'erano dei problemi di cerici e basta. che è un demonio, a meno che non lo vuoi provare come facevo di pensare il chiudo, che non segno un microfono quello, ma veramente sei un microfono sarebbe. Sembra così una gargata, però è uno dei migliori microfoni che usano, non qua in Italia, ma in Spagna, perché io se tutti in Spagna li sento sono tutti con Salerno, non viene mancuno usenza. Mi ho provato a dici, ha vulcanito lì qualcosa con la varia sua, si chiama pompa a bocci. Sono scappato l'altro salvatore. È nuovo, stai scherzando, nuovo. Avevo usato cenno 5-6 volte. Salvatore Maracca, tu dicendo io. Ho usato pochissimo, è nuovo. È tutto nero, questo è l'ultimo quello che abbiamo fatto. Sembrava un MC80. È nuovissimo, la spugnetta, nera, tutto, molto bello. E anche lì mi pare ci siano le connessioni da invertire. Mi devo mettere, ma in questa sera mi inverto il canale più 3. Lo metto sul Superstar. Se avete il caro posso usare sul Sears, che è PLL, sul camion di Baracchini, sul President, già si può usare. Non tanto c'ho la base L questa, quindi tutta la base lineare, tutto che VD con gli amplificatori, tutta la parte amatoriale. Mentre l'altra L ho il computer lì, è solo Baracchini. Sono due base, il Sears, 7000, l'Aran e tutti i microfoni, tane più 3, tane più 2, MB più 4, MB più 5. Non c'è problema. Infatti devo mantenere a posto il microfono a palo, perché quello a palo mi gira il ballo e stare con il microfono a palo. Stasera ho provato il Superstar. Già esce bene. E così uso quelli per fare due chiacchiere, non c'è problema. Va bene, tanto me, sono le 11, dai, anche io me lo sarò riuscire domani mattina, che io lavoro. Quindi me ne vado a nanna, sono un po' di salone, fumato sigaretta e poi me ne vado a nanna. E ci sentiamo domani. Quando vuoi venire non c'è problema, sentiamoci, ti avvicini a vedere come mi sono organizzato. Fa piacere, ma questa sera deve venire anche Antonio e dobbiamo provare ad adattare uno di quei microfoni che ho io a quel Mobicom. Ma cosa c'ha questo Mobicom? Perché non si riesce ad adattare ai microfoni o c'ha qualche problema nella radio? Allora, il Mobicom 40 c'ha un problema, in pratica non c'ha la metà della robosa in uscita, se gli attacchi il microfono male non funziona, perché si prende la limitazione direttamente dall'apparecchio, poi puoi usare qualsiasi microfono che puoi, va bene, tutto lì. Antonio, allora cosa possiamo fare? Si può staccare quel connettore sì, eliminare il down e up senza alcuna anche l'alimentazione, sì, giusto, down e up più l'alimentazione, staccare l'alimentazione e provare a collegarlo il panel e mettere l'attacco a 4, il maschio a 4 e provare a collegare uno dei miei, 3 più 3 più 2, insomma fare qualche prova, perché è possibile che il radio non funzioni. Ma magari già funziona, non è il problema, è quello. Non funziona anche bene, è possibile attaccare qualsiasi microfono e funziona, perché io ho attaccato il Salerno, è un demonio con quell'apparecchio. Poi attaccare qualsiasi microfono, addirittura. Anche l'alimentazione, intanto l'alimentazione la piglia al centro, e il centro non va collegato, va collegato solamente alle periferie, una volta che sai quali sono i pulsanti, i spinottini del microfono, dell'up down, di UBT, se l'abbia in curva, intanto che c'abbia importante, ricezione e audio, basta, non devi collegare altro, sono quattro fili. Gli altri vanno tutti eliminati, ma le persone sono, non c'è nessun problema di togliere quello a 6 e metterci quello a 4, capito? Non c'è nessun problema di fare una cosa del genere, a parte che è anche male perché c'è lo stampato, non puoi farlo. Ma è vero, cazzo, c'è quel blaffare della minchia, ho capito, sì me lo ricordo, lo volevo fare anche quello che c'avevo io. perché c'è un VM300 che era 4, c'è un VM300 che era 4. Allora quando ce l'avevo in macchina volevo mettere il VM300 e facevo un punto mettere. Sì. E gai. E vabbè, allora si lascia quello lì e si fa. Si mette il. Si cambia quello spinotto che c'ho io. Già ce l'ho io, sì, quello del Mobico, c'ho anche la trattore. E vabbè, magari quando viene qua Antonio che porta la radio, ti avvicini anche tu, lo vediamo. Tanto posto già ne ho adesso qua, ehi, a voce. C'è l'altro tavolino proprio per fare i lavoretti così, è libero. Metti lì, c'è tutto, prolunga, non c'è manco bisogno perché sotto le scrivanie dove sono le radio ci sono le quattro prese attaccate, quindi ho fatto fare un lavoro fatto bene proprio in questa stanza operativa, boh, non entra nessuno in occhi. Perciò ti colleghi, se vi sa andare a fare, no, non c'è problema. Ma non io so perché lo voglio usare, mi ha detto, però non riesce a farlo andare con quei microfoni che c'è lui, ho avvicinati qua, io già ne ho un microfono. Proviamo, ne ho 4-5 alla tavola, la promo, ce n'è un cassetto pieno. C'ho anche l'F13, che andava molto bene, col Mobico l'avevo provato. E trovi quello che va bene e lo fai andare, cosa? Cazzo, dai, chi vi ha girato le balle. Vabbè, dai, quando vuoi ci sentiamo e ti avvicini. Ciao Antonio, buonanotte, ci sentiamo domani. Saluto anche gli SW dell'ascolto. Ciao a tutti, buonanotte. Quando vuoi tu, Claudio, non c'è problema. Basta fare una chiamata al telefono, già lo sai il telefono mio, Fabio. Poi sono battuto, mi sembra che c'è il telefono mio, tu. Basta fare uno squillo, a me. Vengo e vi raggiungo, non c'è tanto, già me lo ricordo dove abiti, non è che mi... l'unica cosa è il portone, vabbè, quello già arrivo quando sono sotto, limite, ti faccio uno schifo, pagherò, e mi apri il portone e mi dici piano, se no non c'è problema. Buon lavoro, buon tutto, alle prossime, a domani al limite, se ci sei, domani sera, senti, dopo pranzo, quando mi fatti fare il pusino, poi sono le 4. E poi ci sentiamo. Kappa kappa. Sì, io ci sono sempre in radio, non c'è un problema, Antonio. Io in radio ci sono sempre. Devo vedere squelciato, anche l'altro giorno, ieri, chiamato, ti ho risposto. Non c'è problema, sono sempre qua in ascolto. Come che abbia un canale io, tutti gli altri per me non esistono. Se capita che vuole ascoltare, che c'è qualche questione interessante, come ho fatto l'altra sera, e allora l'ascolto, mi fa piacere ascoltare anche i discorsi degli altri, non ho parenti indigeramente, quando sono discorsi interessanti, lavoro di cose, mi fa piacere partecipare anche al di fuori. E se non c'è nessuno, sono qua sul canale 10. E sto qua, basta. Giusto per capire, i tempi sono cambiati, va bene così, d'accordo. Ciao Antonio, buonanotte, grazie delle due chiacchiere, ci sentiamo domani, chiama pure, io dopo le 6 sono sempre qua operativo, 5 e mezza alle 6 sono sempre qua in stanza, che faccio qualcosa, ok, a domani. K comunque la casa è uguale a quella di prima, non ha cambiato niente, si entra dallo stesso cancelletto e si gira sempre a destra, c'è scritto scala F, il mio cognome lo conosci, suoni, se ci sono ti apro, se non ci sono drabbi di culo. Lo stesso cancello già funziona sempre o si bada ogni tanto? Quando stavo lavorando un daniele, ogni 15 giorni in quel cancello, di cancello io. E lì sono andati a pigliare golpi, o si ti cuidi anche l'uno, entrando che non lo lasciano mai aprire e lo buttano, oppure qualche fulmine ce l'ha disintegrato qualche volta il motore. No, ma adesso l'hanno messo a posto. Hanno accorciato, hanno fatto il passo d'uomo, hanno fatto un sacco di lavoro l'anno scorso. Ma che c'è letto quello piccolo, Antonio, sto dicendo, dove si entra per i portoni, no? Cancelletto piccolino, entri, come entri nel cancelletto a destra c'è scala F e scala G, nella F leggi mio cognome Sciuni, io comunque pomeriggio sono sempre a casa, dopo le 5 io sono sempre a casa, meno che non ti risponde mia moglie, non sono rientrato, ma vedi la furgonetta, comunque la furgonetta di Abba c'è fuori. E anche lì, cazzo, avevamo noi anni fa in quelle furgonette, vabbè questa non tutti a Cagliari, e il Ponte Radio avevamo noi, no? A Monte Alvaro. Poi anche lì a chi non ha mai pagato e hanno fatto decadere la concessione. Allora le furgonette rimaste, infatti mi arriva il PL proprio nel cassettino vicino dove c'è l'autoradio. Oh, quarantena Antonè. Ti ricordi, mi serve lo stilo, non riesco a trovarlo, non monobanda, quella bibanda tipo quella che aveva un tempo, caramba, ti ricordi, quella spiraletta, che c'ha la farfallina, mi è rimasto l'attacco, cazzo, non riesco a trovare lo stilo. Quante ne vuoi di quelle antenne? Era una tra le varie, una ma ne serve, lo stilo mi serve, l'attacco è già attaccato, l'attacco, arriva al capo tutto. Mi serve solo lo stilo, c'ho anche la farfallina, figurati, dentro il cassetto mi l'ho trovato. Mi serve lo stilo, sono andato da Antonello, da Fusaro, che un tempo li vendeva quegli stili lì, e poi non li ha più ordinato. Mi serve colui perché se metto io c'ho quello monobanda, ma se metto quello me la fotti una, vedo che tu vai. Invece se metto lo stilo bibanda, posso mettermi lì come quello che ho preso da Salvatore, che bibanda. Non ingombrante niente, lo metto dentro il cassettino, pure la sera me lo porto su. Ma cosa vai, da Mario Chigi ne piace Vita Vecchia, andalo via a Tempio, c'è la... il laboratorio lì c'è un sacco di quelle antenne lampade, c'è l'antenna ciappe che c'è antenne, c'è anche portatili. C'era quelle antenne che c'erano quel mezzo semicircolo che fa, ma poi c'erano le carabine, e poi c'erano quella che c'ha una, due, tre spinette, che fanno per U e per V. No, sì, di quelli mi serve. A pensare ne avevo due di quegli stili. Magari sono dentro qualche armadio, cazzo. Devo controllare. Perché c'è rimasta la basettina e basta. Poi quelle che ci ho io, le antenne sono tutte a filettatura, capito? Attacco PL. Ma c'è, siccome lì c'è già il mozzettino attaccato, basta scegliere il coso, metterlo a farfalla e via a posto. Vabbè, vai, quando ci vediamo, vediamo. Noi andiamo assieme alla Mario, una di queste sere ti chiamo, posso apprenderti e andiamo assieme alla Mario. Basta chiamarmi domani, tanto Mario deve scendere in campagna domani quando sono io, te l'ho fatto mio fratello, quindi... La secchiave domani, e così ti faccio vedere lì, così ti prendi l'antenna. C'è un'antenna, un calascio, ma lì c'è antenne, c'è antenne di macchina lì, c'è antenne per cose, c'è di tutto qua, lampato. C'è una testina, perché è una testina, è tutto quello che c'è lì, ti ho buttato a Santa Maria, e tu non te la metti su internet, ti prendi un accidente, non puoi andare con il torneo. E gli accidenti, ho detto, perché, gli ho detto, adesso, ho detto, ho detto, se non c'è un apparecchio di quelli che c'è il VHF, ho detto, costava 200.000 lire, allora, secondo te, lo prendi 200.000 lire, ma manco 50 te l'avevamo, ho detto, dici, sì, vedi, invece che vai. Andiamo bene, mi ha detto. Comunque, antenne ce le ha, ce l'ha anche magnetiche, c'è l'attacco a piede, se vuoi l'attacco a piede, un quarto tipo di antenna, basta che smetti... C'è una specie di permesso, c'è una vittina esagonale piccolina, il settore dello stiletto, tutto testo in quell'aggeggio che sta dicendo tu. Quindi ho pagato che si togli da una parte e verso l'altra, per capire ci puoi buttare. Sì, ci andiamo assieme comunque, ci andiamo assieme, già ci conosciamo ormai. Io sono andato, sono vero, quando ho fatto la fiera di Genova, la ragazza mi ha regalato poco e mollezza. E poi non è stato un lavoro, guarda mi c'è la tua vita che ragazzi, figurati, siamo andati in inverno noi, il 22 di dicembre, cazzo, era, no, il 20 dicembre, era 20, 21 e 22 la fiera. Cazzo, per carità di Dio, non mi voglio ricordare, Lugna, Marghera, da un vogliato in fiera, un tonnellaio, ui, ui, ui. Era tutto quel volta che mi diceva, guardato con guarda, un po' di volte. Ha applicato un po' di roba, mi ha applicato la roba bene, la verità, perché ha applicato di quei continui, non so come si chiama, un stabilizzatore di tensione. E colpo di continuità per computer, mi ha pagato un paio di 15 euro, quindi 20 euro. Quando mancava la 220 c'aveva la 220 direttamente dalla batteria. Sì, già li ho visti. C'è un altro volte li avevo presi da lui. Anche io ce l'ho uno, ma l'avevo preso da lui lo stesso. Che però non ho collegato, e infatti adesso pensandoci bene lo collego. Lo collego, faccio caricare, lo collego perché adesso d'inverno e bisogna stare molto attenti col computer. Comunque ci sentiamo per telefono e vediamo un po' di organizzarci, eh. Così mi sistemo anche il fiorino che a volte sono in giro a destra e a sinistra e puoi fare sempre due chiacchiere. C'ho il VU, lo piazzo lì. Se non lo trovo c'ho l'antenna quella piccola. E tolgo quella basetta, c'ho un centro tetto, il buco c'è già, ne tolgo quella basetta, allargo leggermente il buco e vi passo l'attacco nuovo a piede. Ho rotto le palle, anche quando sto fuori, a volte sto fuori due o tre giorni alla Genara, ma esci lì e ti fai due chiacchiere da sera. Vabbè, tanto è, ciao, passo e chiudo, ci sentiamo domani. Ecco, dunque per me ti conviene prima del PD, perché la chitarra con lo stesso. Anche se ci organizziamo tutti con il PD e parliamo con il PD. Tanto ne accorta, non dà nessun problema e visto che io la mia conta da che parlo da quella parte con Genova, con cosa, 4 Sassari, con 5 volte. Quindi, mi pare che ci organizziamo più tanti con il PD come una volta non c'era Vittorio e fermo prima. Tanto invece siete un problema con cane. E noi siamo già a buon livello, perlomeno. Io, Luca, adesso organizzando Antonio, dobbiamo avere 5 minuti per montare l'antenna, infatti quando ritiro l'altra che ho da Luigi, la XC300, questa 50 che ho io la passo a Antonio Falchetto, la metto con la staffa a palo, il capo ce l'ho, c'ho tutto, la metto l'antenna e poi le passo il portatile che ho io, che fa UHF tutto completo, tutto l'LPD e tutto PMR, ma 5 watt, c'è un professionale, non di chi si compra di città mercato. Questo è un icono professionale, solo che fa solo UHF, con tutti i passi, con tutto, è molto bello, lo passa lui quello lì, lo usa lui. Dunque ce l'ha già, io ce l'ho già, quindi tu organizzati. Tanto siamo tutti vicino, perciò noi stiamo già parlando, quando non ci senti 27 siamo in una frequenza o quella di Porto Torres in V o quella in U rifatti in Ustri, capito? Vabbè, già ci vediamo di persona, dai, stammi bene, buonanotte. Sì, ciao, buonanotte, alle prossime, ci vediamo, non c'è problema. Ciao, alle prossime. Ciao, buonanotte.